c'è tensione, anche perché c'è uno scambio culturale con la Catalogna molto intenso. C'è una città di cultura algherese, che è Alghero, dove si parla ancora catalano, perché insomma era una roccaforte catalana. Noi abbiamo perso proprio la nostra indipendenza a causa dei catalano-aragonesi nel 1409, quindi abbiamo avuto diversi influssi catalani, aragonesi e poi spagnoli, quindi insomma c'è un rapporto anche di cultura molto, molto intenso, molto, molto profondo. Venendo all'attualità invece, ci sono dei rapporti tra voi e i movimenti per l'indipendenza catalani? Sì, ce ne sono stati parecchi, insomma anche nel passato. Adesso il movimento indipendentista catalano è molto variegato, ci sono varie sensibilità politiche, si va dai liberali, conservatori, fino all'estrema sinistra, la sinistra antagonista della CUP. Ecco, io personalmente, essendo appunto di sinistra, ho rapporti con la CUP. Ho visto che dalla Sardegna, appunto dal vostro comitato, state organizzando diverse iniziative, addirittura una delegazione andrà a Barcellona questa domenica? Sì, sì, assolutamente, saremo 4, ma ci saranno tanti altri sardi che andranno, insomma ognuno si sta organizzando, ogni movimento, ogni gruppo, sia politico che culturale, si sta organizzando. Noi in particolare saremo 4, lavoreremo proprio con, faremo i volontari fondamentalmente, lavoreremo i seggi, eventualmente si tratterà di difendere i seggi, perché l'ultima notizia è che Madrid vuole proprio sigillare i seggi, chiudere, recintarli per impedire nell'arco di 100 metri che nessuno si avvicini. Sì, abbiamo visto che Madrid intende mandare proprio anche la polizia per impedire l'accesso ai seggi. Tra l'altro la polizia nazionale spagnola, quindi non quella catalana, perché i catalani hanno una polizia autonomistica, ma la polizia proprio spagnola sta alloggiando nelle navi italiane. Una delle azioni che abbiamo fatto è protestare davanti alla biglietteria della Moby con uno striscione, perché insomma troviamo uno scandalo che 3 navi italiane vengano affittate allo Stato spagnolo, notizia delle ultime ore che fra l'altro vengono annullati i viaggi dei sardi, stanno arrivando dalle grandi navi veloci, la compagnia marittima, per permettere proprio ai navi italiane di alloggiare poliziotti spagnoli nella rada di Barcellona. Questo è uno scandalo, perché insomma, tra l'altro è ancora fresca nei cataloni la memoria di quello che fece il fascismo nel 36, volevamo denunciare anche questo aspetto. E adesso non so se effettivamente è il vostro comitato, però glielo chiedo lo stesso, c'è stata l'offerta anche di portare in Sardegna le schede per scrutinarle in Sardegna, tenerle al sicuro? Sì, non è del nostro comitato, ma non fa niente, è uno storico partito sardo, il PISDAF, che insomma ha fatto questa proposta, che io personalmente condivido, insomma è condivisibilissima. Poi non so se sarà fattibile, però i catalani hanno apprezzato molto tutti gli sforzi che sono stati fatti. Noi abbiamo organizzato un presidio sotto il consolato spagnolo, il console onorario, cioè non spagnolo ma insomma un italiano, non c'erano, volevamo consegnargli un documento per chiedere il rispetto della democrazia, cosa che non sta avvenendo. Nell'epoca in cui abbiamo ad esempio negli Stati Uniti Trump con le sue spinte protezionistiche, quali sono le ragioni dell'indipendentismo? Le ragioni dell'indipendentismo possono essere tante. Sicuramente la crisi dello Stato così come è nato nel Medioevo e poi si è realizzato negli imperi coloniali dell'Ottocento, ecco, è finita quella storia, la storia degli stati centralisti, burocratici, di una cultura che si mangia l'altra. Ora per fortuna non è il caso della Catalogna, lo è stato in passato però, perché comunque i catalani parlano catalano a scuola, per fortuna, perché hanno ottenuto queste conquiste. Per esempio in Sardegna non è così, in Sardegna la nostra cultura, io faccio l'insegnante quindi lo posso anche testimoniare, è completamente repressa, noi non usiamo la nostra lingua, non conosciamo la nostra storia e ne avremo ben d'onde insomma di conoscerla, perché abbiamo una storia molto profonda. Ma poi anche economiche, il centralismo non è un modello che proprio nell'economia attuale globalizzata può funzionare, in particolare per la questione catalana. L'indipendentismo è cresciuto in grande escalation causa anche della miopia del PP, del Partito Popolare Spagnolo, che insomma ha detto di no ad una riforma dello statuto, non ha neanche voluto trattare. Da quel momento in poi anche settori che tradizionalmente non erano indipendentisti si sono convinti che ormai con la Spagna non si poteva più avere a che fare. Però siamo in un'epoca in cui il razzismo e la xenofobia stanno provocando pulsioni, diciamo appunto xenofobe, anche fasciste. Non c'è il rischio che le pulsioni indipendentiste vengano egemonizzate da movimenti di estrema destra? C'è questo rischio, non in Catalogna, perché anzi proprio una delle motivazioni dell'indipendentismo catalano è proprio la questione dei migranti. A Barcellona si è tenuta recentemente una manifestazione promossa anche dagli indipendentisti sulla necessità di accogliere i profughi. Movimenti indipendentisti tradizionali, in particolare Catalogna, Paese Basco e Sardegna, sono abbastanza, per fortuna, ancora impermeabili, anche se alcune avvisaglie pericolose ci sono da questo punto di vista. Bisogna fare chiarezza. sa, diciamo che l'indipendentismo ha delle ragioni storiche, economiche e oggettive, poi ovviamente dipende anche dai movimenti che ci lavorano fare argine alle delle pulsioni che sono trasversali, perché noi possiamo avere un razzista centralista e un razzista indipendentista, sta a noi lavorarci e far capire che il nostro nemico non sono gli immigrati, anzi per esempio la cultura sarda è frutto di secoli di immigrazione, la nostra stessa cultura è frutto di numerose immigrazioni, anzi anche i sardi emigrano, per esempio noi abbiamo quasi 1 milione di immigrati nel mondo, ecco, prendercela con gli immigrati sarebbe un po' stupido, perché ce la dovremmo prendere principalmente con noi stessi, anzi per me, per quanto riguarda me, insomma il gruppo con cui lavoro eccetera, essere indipendentisti significa anche rifiutare le politiche repressive sull'immigrazione dello Stato centrale. Sognate un referendum anche in Sardegna? Ma non è all'ordine del giorno, però per esempio sulla questione dell'autodeterminazione noi stiamo lavorando molto contro l'occupazione militare e i sardi non hanno il diritto di esprimersi su questo tema. Qualche anno fa prendemmo le firme per un referendum consultivo, perché lo statuto autonomistico ce lo permette, sulle basi militari, cioè sulla presenza del 70% di servitù militari a livello italiano, e la Corte Costituzionale bocciò questo referendum bollandolo come contrario agli interessi nazionali. Ecco, questa è una buona ragione, diciamo, per lottare per l'indipendenza, perché non capiamo quali sono le ragioni nazionali che possono portare una terra a essere riempita dei tre poligoni militari più importanti d'Europa, base militare di lancio di tutte le operazioni di aggressione dall'Iraq alla Libia, l'aeroporto di Decimo Manno, la sperimentazione di industrie private, insomma, da noi si addestra chiunque. A partire da Israele. Quindi questa è una delle battaglie che come indipendentisti sardi stiamo portando avanti all'interno dell'Assemblea Generale contro l'occupazione militare a Foras, che vuol dire via, fuori.